Ad alta voce, Piero Baldini legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Quando José Arcadio Buendía si accorse che la peste aveva invaso il villaggio, riunì i capi di famiglia per spiegar loro quello che sapeva sulla malattia dell'insonnia e fu deciso di adottare delle misure per impedire che il flagello si propagasse ad altre popolazioni della palude. Fu così che si tolsero ai capri le campanelle che gli arabi barattavano coi pappagalli e furono messe all'entrata del villaggio a disposizione di coloro che trascuravano i consigli e le suppliche delle sentinelle e insistevano nel voler visitare il villaggio. Ogni forestiero che in quell'epoca percorreva le strade di Macondo doveva far suonare la sua campanella, perché i malati sapessero che era sano. Non gli si permetteva né di mangiare né di bere nulla durante il soggiorno, perché non c'era dubbio che la malattia si trasmetteva soltanto per bocca, e tutte le cose da bere e da mangiare erano contaminate di insonnia. In quel modo si mantenne la peste circoscritta al perimetro dell'abitato. La quarantena fu così efficace che giunse il giorno in cui lo stato di emergenza venne considerato come cosa naturale e si organizzò la vita in modo tale che il lavoro riacquistò il suo ritmo e nessuno si preoccupò più dell'inutile abitudine di dormire. Fu Aureliano che concepì la formula che li avrebbe difesi per parecchi mesi dalle evasioni della memoria. Lo scoprì per caso. Insonne esperto, per esserlo stato tra i primi, aveva imparato a perfezionare l'arte dell'oreficeria. Un giorno stava cercando la piccola incudine di cui si serviva per laminare i metalli e non si ricordò del suo nome. Suo padre glielo disse. Tasso. Aureliano scrisse il nome su un pezzo di carta che appiccicò con la colla sul piede dell'incudine. Tasso. Così fu sicuro di non dimenticarlo in futuro. Non gli venne in mente che quella poteva essere la prima manifestazione della perdita della memoria, perché l'oggetto aveva un nome difficile da ricordare. Ma pochi giorni dopo scoprì che faceva fatica a ricordarsi di quasi tutte le cose del laboratorio. Allora le segnò col nome rispettivo, di modo che gli bastava leggere l'iscrizione per riconoscerle. Quando suo padre gli rivelò la sua preoccupazione per essersi dimenticato perfino dei fatti più impressionanti della sua infanzia, Aureliano gli spiegò il suo metodo e José Arcadio Buendía lo mise in pratica in tutta la casa e più tardi lo impose a tutto il paese. Con uno stecco inchiostrato segnò ogni cosa col suo nome: tavolo, sedia, orologio, porta, muro, letto, casseruola. Andò in cortile e segnò gli animali e le piante: vacca, capro, porco, gallina, manioca, malanga, banano. A poco, studiando le infinite possibilità del dimenticare, si accorse che poteva arrivare un giorno in cui si sarebbero individuate le cose dalle loro iscrizioni, ma non se ne sarebbe ricordata l'utilità. Allora fu più esplicito. Il cartello che appese alla nuca della vacca era un modello esemplare del modo in cui gli abitanti di Macondo erano disposti a lottare contro la perdita della memoria. Questa è la vacca. Bisogna mungerla tutte le mattine in modo che produca latte. E il latte bisogna farlo bollire per aggiungerlo al caffè e fare il caffè latte. Così continuarono a vivere in una realtà sdrucciolosa, momentaneamente catturata dalle parole, ma che sarebbe fuggita senza rimedio quando avessero dimenticato i valori delle lettere scritte. Sull'entrata della strada della palude avevano messo un cartello su cui era scritto Macondo e un altro più grande nella strada centrale che diceva «Dio esiste». In tutte le case erano stati scritti segni convenzionali per ricordare gli oggetti e i sentimenti. Ma il sistema esigeva tanta sollecitudine e tanta forza morale che molti cedettero all'incanto di una realtà immaginaria, inventata da loro stessi, che risultava loro meno pratica, ma più riconfortante. Fu Pilar Ternera che contribuì in massimo grado a popolarizzare questa mistificazione, ideando l'artificio di leggere il passato nelle carte, come prima aveva letto il futuro. Sconfitto da quelle pratiche consolatorie, José Arcadio Buendía decise allora di costruire la macchina della memoria, che una volta aveva desiderato per ricordarsi delle meravigliose invenzioni degli zingari. La immaginava come un dizionario girevole che un individuo situato al centro potesse manovrare mediante una manovella, in modo che in poche ore passassero davanti ai suoi occhi le nozioni più necessarie per vivere. Era riuscito a scrivere circa 14.000 schede quando apparve sulla strada della palude un vecchio bizzarro con la triste campanella dei dormienti che trascinava una valigia rigonfia legata con funi e un carrettino coperto di stracci neri. Andò direttamente nella casa di José Arcadio Buendía. Visitación non lo riconobbe quando aprì la porta e pensò che avesse l'intenzione di vendere qualcosa. Era un uomo decrepito. Anche se perfino la sua voce era rotta dall'incertezza e le sue mani sembravano dubitare dell'esistenza delle cose, era evidente che veniva dal mondo dove gli uomini potevano ancora dormire e ricordare. José Arcadio Buendía lo trovò seduto nel salotto, intento a farsi vento con un cappello nero rattoppato e a leggere con compassionevole attenzione i cartelli appesi alle pareti. Lo salutò con ampie mostre di affetto, temendo di averlo conosciuto in altri tempi e di non riconoscerlo ora. Ma il visitatore si rese conto della sua falsità. Si sentì dimenticato, non con la dimenticanza rimediabile del cuore, ma con un'altra dimenticanza più crudele e irrevocabile che egli conosceva assai bene, perché era la dimenticanza della morte. Allora comprese. Aprì la valigia zeppa di oggetti indecifrabili e tra quelli prese una valigetta con parecchi flaconi. Diede da bere a José Arcadio Buendía una sostanza di colore gradevole e la luce si fece nella sua memoria. Gli occhi gli si inumidirono di pianto prima di vedere se stesso in un salotto assurdo dove gli oggetti erano etichettati e prima di vergognarsi delle solenni baggianate scritte sulle pareti e prima di riconoscere il nuovo venuto in un abbagliante fulgore di gioia. Era Melchiades. Mentre Macondo celebrava la riconquista dei ricordi, José Arcadio Buendía e Melchiades scossero la polvere dalla loro vecchia amicizia. Lo zingaro veniva deciso a restare nel villaggio. Era stato nella morte, effettivamente, ma era tornato perché non aveva potuto sopportare la solitudine. Ripudiato dalla sua tribù, privato di ogni facoltà soprannaturale come castigo per la sua fedeltà alla vita, decise di rifugiarsi in quell'angolo del mondo non ancora scoperto dalla morte e di dedicarsi alla gestione di un laboratorio di daguerrotipia. José Arcadio Buendía non aveva mai sentito parlare di quella invenzione, ma quando vide se stesso e tutta la propria famiglia effigiati in un'età eterna su una lastra di metallo lacca muffa, ammutolì dallo stupore. Da quell'epoca datava l'ossidato daguerrotipo su cui appariva José Arcadio Buendía, coi capelli irti e brizzolati, col colletto duro della camicia allacciato con un bottone di rame, e un'espressione di solennità sbigottita. E che Ursula descriveva, scoppiando a ridere, come un generale spaventato. In effetti, in quella diafana mattinata di dicembre in cui gli fecero il daguerrotipo, José Arcadio Buendía era spaventato, perché pensava che la gente si andava sciupando a poco intanto che la sua immagine passava sulle lamine metalliche. Qualche mese dopo tornò Francisco El Hombre, un vecchio giramondo di quasi 200 anni, che passava frequentemente da Macondo divulgando le canzoni che lui stesso componeva. In quelle canzoni, Francisco El Hombre riferiva con particolari minuziosi le notizie occorse nei paesi del suo itinerario, da Manaure fino ai confini della palude. Di modo che se qualcuno aveva un messaggio da mandare o un avvenimento da divulgare, gli pagava 2 centavos per farglielo includere nel repertorio. Fu in questo modo che Ursula fu informata della morte di sua madre, per puro caso. Una sera in cui ascoltava le canzoni con la speranza che dicessero qualcosa di suo figlio, José Arcadio. Francisco El Hombre, così chiamato perché aveva battuto il diavolo in una gara di improvvisazione di canzoni, e il cui vero nome nessuno seppe mai, sparì da Macondo durante la peste dell'insonnia e riapparve una sera, senza nessun preavviso, nella bottega di Catarino. Tutto il villaggio andò a sentirlo per sapere che cosa era successo nel mondo. In quella occasione arrivarono con lui una donna così grassa che 4 indios dovevano trasportarla in una poltrona a dondolo e una derelitta mulatta adolescente che la proteggeva dal sole con un ombrello. Aureliano andò quella sera nella bottega di Catarino. Trovò Francisco El Hombre come un camaleonte monolitico, seduto in mezzo a un circolo di curiosi. Cantava le notizie con la sua vecchia voce scordata, accompagnandosi con la stessa fisarmonica arcaica che gli aveva regalato Sir Walter Raleigh nella Guyana, e scandendo il ritmo coi suoi grandi piedi camminatori, screpolati dal salnitro. Davanti a una porta in fondo al locale, da dove entrava e usciva qualche uomo, era seduta e si sventagliava in silenzio la matrona della poltrona a dondolo. Catarino, con una rosa di feltro sull'orecchio, vendeva ai clienti scodelle di succo di canna da zucchero fermentato e approfittava dell'occasione per avvicinarsi agli uomini e mettergli la mano dove non doveva. Verso mezzanotte il calore era insopportabile. Aureliano ascoltò le notizie fino alla fine, senza trovarne alcuna che potesse interessare la sua famiglia. Si stava preparando a tornare a casa quando la matrona gli fece un cenno con la mano. «Entra anche tu», gli disse. «Costa soltanto 20 centavos». Aureliano gettò una moneta nel bossolo che la matrona aveva fra le gambe ed entrò nella stanza senza sapere perché. La mulatta adolescente, con le sue tettine da cagna, era nuda nel letto. Prima di Aureliano quella notte, 63 uomini erano passati nella stanza. A furia di essere usata e legata con sudori e sospiri, l'aria della camera cominciava a trasformarsi in melma. La ragazza tolse il lenzuolo inzuppato e pregò Aureliano di tenerlo da un capo. Pesava come un telone. Lo strizzarono, torcendolo dalle estremità, finché recuperò il suo peso naturale. Voltarono la stuoia e il sudore usciva dall'altra parte. Aureliano era ansioso che quella operazione non terminasse mai. Conosceva la meccanica teorica dell'amore, ma non poteva reggersi in piedi a causa della fiacchezza delle ginocchia. E anche se aveva la pelle accapponata e ardente, Non poteva resistere all'urgenza di espellere il peso del ventre. Quando la ragazza terminò di sistemare il letto e gli ordinò di svestirsi, Aureliano diede una spiegazione stolida. Mi hanno fatto entrare. Mi hanno detto di mettere 20 centavos nel bossolo e di fare in fretta. La ragazza capì il suo imbarazzo. Se quando esci paghi altri 20 centavos, puoi fermarti un po' di più, disse dolcemente. Aureliano si svestì, tormentato dal pudore, senza potersi liberare dall'idea che la sua nudità non resisteva al confronto con suo fratello. Nonostante gli sforzi della ragazza, Aureliano si sentì sempre più indifferente e terribilmente solo. Pagherò altri 20 centavos, disse con voce desolata. La ragazza gli fu riconoscente in silenzio. Aveva la schiena ridotta a una piaga, la carcassa incollata alle costole e la respirazione alterata da uno sfinimento incalcolabile. Due anni prima, assai lontano da lì, si era assopita senza spegnere la candela e si era svegliata circondata dal fuoco. La casa dove viveva con la nonna che l'aveva allevata s'era ridotta in cenere. Da allora la nonna la portava di villaggio in villaggio, mandandola a letto con tutti per 20 centavos, in modo da ripagarsi il valore della casa incendiata. Secondo i calcoli della ragazza, le mancava ancora circa una decina di anni a 70 uomini per notte, perché inoltre doveva pagare le spese di viaggio e di sostentamento per ambedue e il compenso per gli indios che trasportavano la poltrona a dondolo. Quando la matrona bussò per la seconda volta, Aureliano uscì dalla stanza senza aver fatto nulla, stordito dalla voglia di piangere. Quella notte non poté dormire pensando alla ragazza, con un misto di desiderio e di pietà. Provava una necessità irresistibile di amarla e di proteggerla. All'alba, estenuato dall'insonnia e dalla febbre, prese la serena decisione di sposarla, per liberarla dal dispotismo della nonna e per godere tutte le notti della soddisfazione che la ragazza dava a 70 uomini. Ma alle 10 della mattina, quando arrivò nella bottega di Catarino, la ragazza se n'era andata dal villaggio. Nel frattempo, Melchiade se terminò di effigiare nelle sue lastre tutto quello che era effigiabile a Macondo e abbandonò il laboratorio di daguerrotipia ai deliri di José Arcadio Buendía, che aveva deciso di utilizzarlo per ottenere la prova scientifica dell'esistenza di Dio. Mediante un complicato processo di esposizioni, sovraesposte, prese in diversi luoghi della casa, era sicuro di fare prima o poi il daguerrotipo di Dio, se esisteva, o di porre fine una volta per sempre all'ipotesi della sua esistenza. Melchiade si approfondì nelle interpretazioni di Nostradamus. Rimaneva fino a molto tardi, asfissiando nel suo scolorito panciotto di velluto, a scarabocchiare carte con le sue minuscole mani di passero, su cui gli anelli avevano perduto il luccichio di un tempo. Una notte credette aver trovato una predizione sul futuro di Macondo. Sarebbe diventata una città luminosa, con grandi case di vetro, dove non restava traccia alcuna della stirpe dei Buendía. «È uno sbaglio!» tuonò José Arcadio Buendía. «Non saranno case di vetro, ma di ghiaccio, come ho sognato io, e ci sarà sempre un Buendía per i secoli dei secoli!» In quella casa stravagante, Ursula lottava per preservare il senso comune e aveva ampliato l'industria di animaletti di caramello, aggiungendo un forno che produceva per tutta la notte canestri e canestri di pane e una prodigiosa varietà di budini, meringhe e biscottini che si dileguavano in poche ore per le plaghe della palude. Era giunta un'età in cui aveva diritto di riposare, ma ciò malgrado era sempre più attiva. Era così occupata nelle sue prospere iniziative che un pomeriggio guardò distrattamente in direzione del patio, mentre l'India la aiutava a addolcire la pasta, e vide due adolescenti sconosciute e graziose che ricamavano a telaio nella luce del crepuscolo. Erano Rebecca e Amaranta. Appena uscite dal lutto della nonna, che avevano conservato con inflessibile rigore per 3 anni, gli abiti vivaci sembravano aver dato loro un nuovo posto nel mondo. Rebecca, al contrario di quello che ci si poteva aspettare, era la più bella. Aveva la pelle diafana, occhi grandi e tranquilli e mani magiche che sembravano elaborare con fili invisibili la trama del ricamo. Amaranta, la minore, era scarsa di grazia, ma possedeva il garbo naturale e la rigidità interiore della nonna morta. Vicino a loro, anche se già rivelava l'impulso fisico di suo padre, Arcadio sembrava un bambino. Si era dedicato a imparare l'arte dell'oreficeria con Aureliano, il quale inoltre gli aveva insegnato a leggere e a scrivere. Ursula si rese improvvisamente conto che la casa si era riempita di gente, che i suoi figli erano sul punto di sposarsi e di avere figli e che sarebbero stati costretti a disperdersi per mancanza di spazio. Allora prese il denaro accumulato durante lunghi anni di duro lavoro, contrasse debiti coi suoi clienti e intraprese l'ampliamento della casa. Ordinò che si costruisse un salotto buono per le visite, un altro salotto più comodo e fresco per l'uso quotidiano, una sala da pranzo con un tavolo da 12 dove la famiglia potesse sedersi con tutti i suoi invitati, 9 camere da letto con finestre verso il patio e un lungo porticato protetto dalla luminosità del mezzogiorno, da un giardino di rose con una balaustra per mettervi vasi di felci e testi di begonie. Ordinò di ampliare la cucina per potervi costruire 2 forni, di abbattere il vecchio granaio dove Pilar Ternera aveva letto l'avvenire a José Arcadio e di costruirne un altro 2 volte più grande, in modo che la casa non mancasse mai di cibo. Ordinò la costruzione nel patio all'ombra del castagno di un bagno per le donne e di un altro per gli uomini e in fondo una scuderia grande, un pollaio cintato, una stalla da mungitura e una uccelliera aperta ai 4 venti perché potessero sostarvi a loro piacimento gli uccelli senza meta. Seguita da 12 di muratori e di carpentieri, come se avesse contratto il delirio febbrile di suo marito, Ursula stabiliva la posizione della luce e il comportamento del calore e distribuiva lo spazio senza il minimo senso dei suoi limiti. La primitiva costruzione dei fondatori si riempì di utensili e di materiale, di operai affranti di sudore che chiedevano a tutti il favore di non intralciare, senza pensare che erano loro quelli che intralciavano, esasperati dal sacco di ossa umane che li perseguitava dappertutto col suo sordo sonagliare. In mezzo a quei disagi, respirando calce viva e melassa di catrame, nessuno capì molto bene come fece a sorgere dalle viscere della terra non soltanto la casa più grande che ci sarebbe mai stata nel villaggio, ma anche la più ospitale e fresca che ci fu mai nel giro della palude. José Arcadio Buendía, che continuava a cercare di sorprendere la divina provvidenza in mezzo al cataclisma, fu quello che lo capì meno di tutti. La nuova casa era quasi terminata quando Ursula lo strappò dal suo mondo chimerico per informarlo che c'era l'ordine di dipingere la facciata di azzurro e non di bianco, come volevano loro. Gli fece vedere la disposizione ufficiale scritta su una carta. José Arcadio Buendía, senza capire quello che diceva sua moglie, decifrò la firma. «Chi è questo tipo?» chiese. «Il correggitore», disse Ursula desolata. «Dicono che sia un'autorità che ha mandato il governo».